Nasce un nuovo progetto per la rivista Contemporaneamente Versi, il cui sito internet è contemporaneamenteversiblog.wordpress.com. Direttore editoriale Luca Giambonino. È una mia iniziativa, cioè avere un canale podcast in modo tale che gli utenti, i lettori della rivista, potranno non solo leggere le poesie, ma anche ascoltarle recitate. Questo spero che servirà per aumentare i lettori, per aumentare i poeti, per aumentare le poetesse, per coinvolgere più persone nell'ambito della rivista e per fare in modo di raggiungere una maggiore visibilità, soprattutto su internet. Ci sono già altri progetti in corso, come il progetto della rivista cartacea, che viene pubblicata ogni mese un estratto della rivista. E spero che questo progetto farà piacere a tutti quanti e spero veramente che potrà essere un trampolino di lancio per tanti nuovi poeti e nuove poetesse che collaborano con la nostra rivista da veramente tanto tempo.